lasciami in pace. E se parlar ne vuoi, del caro penso le parla. Almen rifletti a tua salvezza, era il periglio tuo. Roma, Roma che può, con sue congiure, toglierti vita intero. Il pur sarei, se un tal timor provassi. Ma che viltà non è, rimedio imporca al precipizio tuo. Labbro mio, l'alto fe parla sol d'un buon massaro. E ciò, se vuoi piacermi, lasciami in pace. Io parto per vedere il mio bene. Oh, che fabbro tu sei nelle tue pene!